Anima fragile, ti sei lasciata morire nel vento, urlavi tuo padre. Anima fragile, rileggo il tuo nome che ostenta forza, un morso di cobra, invece eri un'anima fragile. Stringe il polso, il laccio per l'ultima dose, il verme corrode la gamba, asfissia di germe, germina dentro il veleno, proprio come d'un cobra che sputavi al mondo e a una famiglia che non ti voleva, solo perché eri un'anima fragile, indomito veleno spruzzavi per non soffrire nello sballo, dimenticare che eri un'anima fragile. Sei passato attraverso lo sguardo di anime d'angelo, veloce, effimero e fragile, mentre il corpo annichiliva, volavi via nel vento, ora la tua immagine. E quindi eri un'anima fragile, ti sei lasciata morire nel vento, urlavi tuo padre, anima fragile. Rileggo il tuo nome che ostenta forza, un morso di cobra, invece eri un'anima fragile. Stringe il polso, il laccio per l'ultima dose, il verme corrode la gamba, asfissia di germe, germina dentro il veleno, proprio come d'un cobra che sputavi al mondo e a una famiglia che non ti voleva, solo perché eri un'anima fragile. Indomito veleno spruzzavi per non soffrire nello sballo, dimenticare che eri un'anima fragile. Sei passato attraverso lo sguardo di anime d'angelo, veloce, effimero e fragile, mentre il corpo annichiliva, volavi via nel vento, ora la tua immagine. Anima fragile, anima fragile.